Back to the Future, volume allegato al documentario RIP, a Remix Manifesto, un film di Brett Gaylor. Conversando con Juan Carlos de Martín. Juan Carlos de Martín è professore di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino, cofondatore di Creative Commons Italia. Juan Carlos de Martín e Marco Ricolfi hanno insieme fondato il centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino. Nexa.polito.it, che ora dirigono. Qual è la sua impressione su RIP, a Remix Manifesto? Direi che è senz'altro positiva per il seguente motivo. Partendo da esempi tangibili, in particolare il protagonista del film, Girl Talk, che è un musicista con una certa popolarità, riesce a far capire in maniera concreta che cosa sta capitando al diritto d'autore in questi ultimi 10 anni, con l'avvento di computer e di internet. Ti fa toccare con mano quello che avviene quando regole vecchie di secoli, come il caso del diritto d'autore, vengono applicate in un mondo che nel frattempo è completamente cambiato. In che senso è cambiato? In passato il diritto d'autore riguardava soltanto l'industria culturale, impianti, fabbriche con macchinari per stampare rispettivamente libri, quotidiani, CD e DVD. Adesso invece questa stessa legge, che nel frattempo non è stata minimamente modificata, tocca a tutti noi che con un computer possiamo fare, anche se in maniera più limitata, quello che fa Girl Talk nel documentario. Prendere un video o un audio, modificarlo, ripubblicarlo a scopo di commento, critica o divertimento. Quindi, partendo da un esempio concreto, grazie ad alcune interviste e personaggi chiave, questo documentario mette bene in evidenza quali sono i problemi cruciali che si dovranno affrontare nei prossimi anni relativamente al diritto d'autore. Condivide la tesi principale del manifesto del film che la cultura è solo tutto un remix? Condivido questa tesi anche se non è proprio nuova. Potrei citare un dibattito della fine del Settecento tra Diderot e Condorcet. Il primo, che rappresentava gli editori, dotati di grande lungimiranza a scegliere uno sveglio come lui, sosteneva che le opere dell'ingegno sono totalmente originali, esse sono il frutto creativo di una mente e come tali devono godere di una tutela. Condorcet, invece, affermava che quello che produciamo e che pensiamo è enormemente influenzato da tutto ciò che è venuto prima di noi e dall'ambiente in cui viviamo. La tutela, quindi, deve essere molto più limitata. Tra i due ebbe la meglio Diderot, come la prima legge sul diritto d'autore francese post-rivoluzione. Alla fine è sempre lo stesso discorso. Che cos'è Creative Commons? Cosa accade in Italia? Faccio un passo indietro perché tutto parte da lì. Internet è nata 40 anni fa, anche se ha cominciato a diffondersi in maniera più concreta a partire dagli anni 80 e a livello di massa a partire dagli anni 90. Sono in molti a pensare che Internet rappresenti una discontinuità tecnologica di una complessità e di un impatto totalmente differente dall'avvento della televisione o del telefono. È qualcosa di più esteso, accostato da alcuni all'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Si tratta quindi di una discontinuità tecnologica che insegna un momento di rottura nella storia davvero decisivo. Da questo punto di vista sono in molti a ritenere che per studiare Internet si debba avere un approccio multidisciplinare, tecnologico, giuridico ed economico perlomeno, ma in realtà anche sociologico, psicologico e via dicendo. Esistono gruppi di persone costituitisi prima in modo informale che col tempo poco alla volta si stanno istituzionalizzando, gruppi di imprenditori che incontrano accademici, avvocati, artisti per discutere tra loro di quel che sta capitando con Internet e delle prospettive future. Uno di questi gruppi, formatisi negli Stati Uniti intorno al 2000-2001, discutendo di internet e in particolare del diritto d'autore, ha cominciato a ragionare su questo problema cruciale. Nel momento in cui la legge sul diritto d'autore improvvisamente viene applicata anche al miliardo di persone online che produce 120 milioni di blog e miliardi di fotografie, non si corre il rischio che tutta questa immensa produzione, chiamiamola amatoriale, di ciascuno di noi venga protetta esattamente come l'ultimo film della Walt Disney? Quindi per i prossimi, diciamo, 120 anni, 70 anni della morte dell'autore, non c'è il rischio pazzesco che questa enorme produzione, che in realtà nella maggior parte dei casi non vogliamo tutelare in maniera forte come l'ultimo film della Pixar, venga protetta per le prossime 3-4 generazioni? Questo eterogeneo gruppo di persone ha cominciato a pensare a cosa fare per evitarlo. La soluzione ottimale sarebbe certamente la riforma della legge, visto che il mondo è cambiato. Per farlo però i tempi sono quantomeno medio-lunghi. Bisogna cambiare infatti le leggi nazionali, le direttive europee, i trattati internazionali. Allora, da bravi americani concreti, si sono chiesti: come rendere possibile a chiunque lo voglia il mettere a disposizione questi contenuti, di qualsiasi genere, in maniera più liberale, più generosa, evitando che siano protetti in maniera così rigida per i prossimi 120 anni? A questo punto hanno suggerito la creazione di uno strumento, una licenza del diritto d'autore gratuito, ben fatto e poi tradotto in 50 lingue, adattato a 50 sistemi normativi nazionali, in modo che chi vuole, su base strettamente volontaria, possa dire: Rinuncio all'enorme protezione che mi offre la legge e consento un utilizzo molto più generoso. Nasce così in America Creative Commons. In Italia entriamo in gioco noi, come altri colleghi in altri paesi, che in modo del tutto volontario accolgono l'invito di Creative Commons negli Stati Uniti a prendere queste licenze, a tradurle nelle varie lingue e ad adattarle, dove necessario, alle leggi dei singoli paesi. Nell'estate del 2003 io, che sono un professore di ingegneria informatica, e Marco Ricolfi, che è un noto giurista esperto di proprietà intellettuale, accogliamo l'invito e iniziamo il processo per tradurre in italiano e adattare alle nostre norme la licenza Creative Commons. Creative Commons messa a disposizione le licenze, le promuove per farne conoscere l'esistenza al mondo, dopodiché tutto è decentralizzato. Chi vuole usare le licenze non viene da noi, non necessariamente. Magari ce lo fa sapere e noi ne siamo felici, ma in moltissimi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, le usano e basta. Quindi noi ne veniamo a conoscenza con una ricerca su Google. Noi siamo degli osservatori privilegiati, ma restiamo solo degli osservatori. Niente a che vedere con la SIAE, per intenderci. Chi utilizza le licenze Creative Commons? Esiste ogni tipo di possibile utilizzatore. Innanzitutto ci sono milioni di bloggers, singole persone che gestiscono il loro blog, usano licenze Creative Commons per consentire in maniera esplicita che il loro blog venga diffuso, copiato, tradotto e così via, citando la fonte. Da questo punto di vista, qual è il ritorno? In quasi tutti i casi sono persone che non cercano un ritorno economico, hanno solo il desiderio di esprimersi, di farsi conoscere, di costruirsi una reputazione e di essere rispettati dai loro pari. Sono milioni a livello mondiale e moltissime migliaia a livello italiano. Altra categoria diffusa di utilizzatori sono i fotografi. Su Flickr, che è un sito di sharing di foto online, ci sono oltre 100 milioni di fotografie rilasciate con licenze Creative Commons. Si parla di gente che ha fatto una foto più o meno artistica e interessante, che a patto di venir citata, in alcuni casi si possono porre anche altri vincoli come il divieto di sfruttarle commercialmente, è disposta a far vedere le proprie fotografie usate in newsletter e così via. Può riguardare milioni di singoli cittadini, ma anche gli utilizzatori commerciali. Una categoria sono gli emergenti, per cui l'obiettivo più importante è riuscire a bucare il tetto, cioè riuscire a farsi conoscere perché quello è il primo passo, preliminare a qualunque ritorno economico. Le licenze sono un modo per dire prendetemi e copiatemi, prendete e diffondetemi, perché voglio che mi si conosca. Poi all'eventuale ritorno economico ci si penserà una volta che si è conosciuti. Poi ci sono anche imprese già affermate che si pongono una domanda che dovrebbe diventare generalizzata, che si sia un singolo cittadino, un emergente oppure un'impresa. Qual è il giusto livello di apertura da adottare che permetta di raggiungere comunque l'obiettivo prefissato? In alcuni casi potrei dare tutto gratis perché è la soluzione migliore anche da un punto di vista del business. Le copie gratuite distribuite a scopo promozionale sono sempre esistite, quindi anche un'impresa commerciale, anche un'azienda come per esempio la Feltrinelli potrebbe dire: questo prodotto specifico lo do gratuitamente perché è la cosa più razionale da fare. Tra l'altro Feltrinelli ha pubblicato dei libri in Creative Commons. Da questo punto di vista un esempio eclatante è il quotidiano La Stampa di Torino, che già 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, ha deciso di pubblicare 2 inserti, tutto libro e tutto scienza, compreso l'archivio storico completo, con licenza Creative Commons. Questa è una scelta, se si vuole dire, anche promozionale di marketing. Il contenuto più culturale, di maggiore interesse scolastico e per autodidatti, lo si rilascia con licenza Creative Commons, mentre altri contenuti li si mantiene, almeno per il momento, col vecchio sistema. E da dove arriverà il ritorno economico? Non rispondo come Creative Commons, perché Creative Commons si limita a dare licenze senza necessariamente proporre modelli di business. Parlo come ricercatore su questi temi. La prima osservazione è che nel sistema attuale, che bisognerebbe diversificare tra editoria, musica, cinema, documentario, perché ogni campo è diverso e ha le sue regole, in generale le persone che vivono soltanto di diritto d'autore in Italia si contano sulle dita di poche mani, la stragrande maggioranza deve avere uno o più lavori per sopravvivere. Nell'editoria è noto, lo diceva Carlo Fruttero qualche anno fa, gli autori che vivono di diritto d'autore sono meno di 10 in tutta Italia. Lo stesso presidente della SIAE ha pubblicamente affermato di recente che più della metà degli iscritti alle SIAE non recupera il costo dell'iscrizione annuale. Il sistema tradizionale non è un sistema molto generoso con gli autori, diciamolo pure. Per quel che riguarda invece la musica, perlomeno quella cosiddetta popolare, per la classica vale un discorso diverso, si pensa che la maggior parte degli introiti non deriverà dalla musica di per sé, che infatti sarà gratuita, data con ampie disponibilità. Se verrà messa su un sito che ha la pubblicità, questa costituirà un possibile fonte di guadagno. Tuttavia, la maggior parte degli introiti per i musicisti saranno dati dai concerti, dal merchandising, dai servizi aggiuntivi, come la costituzione dei fan club, ai quali è obbligatorio versare una quota per iscriversi. Per In definitiva, la musica in sé tendenzialmente diventerà gratuita. Questo è quello che ritengono molti anche all'interno della stessa industria musicale. L'attaccarsi e difendere a tutti i costi il supporto fisico, il CD, o la musica in sé è probabilmente una strategia poco lungimirante. Altro discorso occorre fare per l'editoria. Recentemente abbiamo avuto il piacere di risentire Baraghini e Bianciardi che raccontavano come vedevano una potenziale evoluzione dell'editoria. È stato divertente sentire l'ipotesi di un autore che scrive un libro, di gran lunga la cosa più difficile, lo stampa in proprio e poi vende il numero di copie che gli verranno richieste a un editore. Quest'ultimo le paga subito, dopodiché le distribuisce e rivende come ritiene meglio. Questa è un'altra potenziale evoluzione che voi del mestiere sapete se sia realistica o meno. Comunque, uno degli argomenti di cui si discute ragionando su come potrebbe cambiare il mondo dell'editoria da questo punto di vista. Quindi le discussioni sono parecchie e specifiche a seconda dei diversi settori, perché ogni ambito ha le proprie regole, le proprie peculiarità. Certamente né a Creative Commons, ma neanche la maggior parte dei ricercatori in questo settore sostiene che bisogna andare verso il gratuito per amor del gratuito. Occorre ovviamente trovare il modo per remunerare gli autori che danno il loro contributo alla società, migliorando la nostra vita. I meccanismi però saranno in parte diversi da quelli del passato. Nella libertà assoluta di Internet, chi è il garante della cultura? Guardando la storia della cultura, in particolare la storia del libro, vediamo come già 200, 300, persino 500 anni fa venivano sollevate le stesse perplessità, usando le stesse parole che si sentono di questi tempi: qualunquismo, anarchia, fruizione veloce, mancanza di autorevolezza. Ho davanti a me la citazione tratta da una lettura dell'umanista Niccolò Perotti, che nel 1471, scrivendo a un suo amico, diceva in sintesi: «Sono troppi i libri che vengono stampati, questi libri sono completamente inutili, c'è grandissima confusione. I libri sono pieni di falsità e di stupidaggini, andrebbero tutti bruciati e tenuti soltanto i libri che dicono qualcosa di serio». La questione quindi dell'autorità, dell'autorevolezza, del rumore che viene prodotto dai media è identica a quella delle ultime centinaia d'anni, è semplicemente cambiata la dimensione. Anziché di migliaia, si tratta di milioni, ma il problema rimane sempre lo stesso. Con Internet la soluzione potrebbe essere sempre quella adottata in passato. Come più fortunati si insegnava a leggere il giornale o a guardare la televisione, oggi occorre insegnare ai nostri bambini a leggere Internet e a capire l'autorevolezza delle fonti, in maniera tale che il loro approccio sia critico e non acritico. Quale paese guiderà il cambiamento e in che tempi? Gli Stati Uniti sono in molti settori un mercato dal punto di vista economico più aperto, meno sovvenzionato, meno oligopolistico, e da questo punto di vista la sperimentazione statunitense è sicuramente più avanti. Penso all'ambito giornalistico, per esempio, in cui si sta tentando di trovare il modo di finanziare il giornalismo professionista. In America sono decisamente qualche anno avanti rispetto a noi. Quanto ai nostri tempi, ci troviamo in un periodo di forte transizione. In questo momento si stanno decidendo le leggi che regoleranno i prossimi decenni. Per alcuni cambiamenti importanti, probabilmente tutto avverrà in pochi anni, ma per resettare la forma mentis delle persone ci vorranno inevitabilmente generazioni. In un campo l'Europa purtroppo ha un negativo primato. La Francia, infatti, ha appena approvato in via definitiva una legge che, per contrastare la condivisione illecita delle opere di ingegno, ha scelto la strada di cacciare la gente da Internet, fra l'altro senza seguire il normale processo giuridico. Temo che la stessa cosa verrà proposta in Italia e in altri paesi europei, ma voglio sperare che prevarrà la consapevolezza che la potenzialità positiva di Internet in ambito culturale, sociale, economico e imprenditoriale merita di venire sviluppata al massimo e non soffocata con battaglie repressive e di retroguardia.